Parente da Pompugno. Ciao. Ciao Gianni. Anto, sei passato? Ma Antonio non c'è più. Antonio! Ci parlo con lui, già lo sai, quindi non te ne passa lui qua. Allora, vabbè. Io non ci posso fare nulla, mi metto tempo. Sì, perché ti metto in conto io, non ti metto in conto per niente io. Ci mancherebbe, ma come mi sui so, non mi. Io voglio bene a tutti. Lo so, io anche i carabinieri voglio bene, io lo sai, cara. Allora, non ho sentito a. Come si chiama? A Marco Condo, che era poco fa qua. Però dice che non sapeva se usciva, stavamo dalla casa sua. No, ho sentito perché sono uscito con Giuseppe stasera e mi ha dato il microfono saletta, gli ho dato stasera, siamo dalla casa sua, le covaster e quindi ho la verità. È stato un giretto insieme a Giuseppe in quei negozi di Bentola, di Alsai, dove si vende la roba a poco prezzo. E non lo stava dicendo che non ha portato via le tante. Beh, cosa c'è di bello, di interessante? I casati ci sono, più che altro ruffesserie ci sono, non è che sia altro, non è che sia questo granché, la verità, ma neanche giù al mercato del Pucci c'è nulla, l'ho già controllato, roba vecchia, boh. Ondetta, stavo ondetta che c'è il mercato del Pucci, non trovi l'occasione, mi di brutto. Ma ce l'ha quella di tutto mondetta, per carità, sta roba brutta, che c'è di bene. E non so se va bene a lui allora. A baracchino, ho te fatto stasera, si dice che c'è a baracchino 40 canali, e fa diventare un baracchino 40 canali con le bande laterali. Si chiama BFO e ce l'ho qua a casa. E ho te fatto con l'amico mio, gliel'ho regalato. Piuttosto che darla a lui. CTE, questa legge, si chiama BFO. In pratica trasforma 40 canali, ho lavorato in un barattino con le bande con cazzate e tutto. SB e SB, basta. E io ho regalato, l'ho fatto, ho detto guarda, te lo regalo perché non faccio niente, la verità di volta. E sono ritira la prossima settimana. Giuseppe l'ho sentito stasera, esce bene, ma lui ha toccato l'eco e me l'ho fatto togliere perché l'ha regolato male, non si capiva cosa diceva. E non è figli che toglie questa cagata di bit. L'antenna è già stazionaria, e l'innesca l'eco, capito? Perché ho provato il barattino mio in casa mia, addirittura ho provato con il barattino suo e il microfono mio. E sono precisi, non è cambi niente. Il problema è che c'è stazionale e quindi fa l'innesco. Fischia mille il microfono. Ma tutti gli amplificati c'è stazionali ti fanno fischiare. E appunto malissimo, quindi. Quello è il problema. Il fatto che adesso gli ho detto, se si appena calma il vento, cosa leggere, saremo. Buttiamo giù l'antenna, ti mettiamo da via e vedrai che esci bene, perché qui l'apparecchio esce quindi perfetto. Anche sul controllo di stasera, qua a casa, è una bomba, ecco il microfono. E già lo so, che vanno bene, quindi. Speriamo che esploda allora. No, l'esplode è un tubo, non ti preoccupare tu. È una salata, che è neanche mia addirittura, figurati tu. Antonio, siccome io ho detto che volevo andare io ieri sera e lui diventa oggi, quindi siamo pari a un certo punto. Quando vado via io entra lui. Io sono andato via ieri, non mi fregava niente sentire la verità, quindi. Era brava. Se mi si ammuscia. Ti faccio andare via davvero, fai da brava. Poi non mi fa andare via nessuno, ma già lo sai. parlare parla, già lo sai, non ho problemi, non è che importante come fai tu. Io lascio parlare a tutti. E questo tuo cosa anche dire. Poi se vuoi parlare parla, non ti dico niente. Mi parte che mi deve parlare solo in un'azione. E buono. Se devi fare ciò che vuoi. Vescovo, di questo vescovo che ha bisticciato col parroco della chiesa durante le crisi, al microfono, ma l'ho su YouTube, no, l'ho visto su Facebook, praticamente dice questo vescovo, ha detto che ce l'ha con lui questo prete perché gli ha tolto praticamente l'apporto da parroco in una chiesa perché dice che ha dei disturbi mentali e lui ha detto che i disturbi mentali ce l'aveva l'arcivescovo. Ehi, figurati, vedete, dai, io via. Ci sentono i commenti delle madri, che dice, proprio a me dove succede una cosa del genere, non è possibile. Guarda che un mese fa sono entrato uno e stava pensando che cioè è entrato che era convinto su Facebook che fosse parlando con le ragazze, invece stava parlando con mia nipote e c'era la denuncia in corso, capito? Figurati, su Facebook qui. Poi io ce l'ho imparlato. Ah, ieri è successo così, che praticamente come ogni volta stavo aprendo Facebook e mi è apparsa la pagina di Facebook come praticamente dovevo mettere il nickname e la password. Ma la password delle cose, ma come si chiama la... non mi viene. Vabbè, comunque dovevo mettere l'indirizzo di posta. E ho fatto tutto pensando che fosse Facebook, vi ricordo mi appare questa scritta che è la pagina precedente, non era di Facebook ma era clonata, di cambiare subito la password, ma l'ha mettato tutto, ho messo un programma, un casino, guarda che c'ha cuo croma, te sarà pazzo. Gianni, guarda che c'è qualcuno sotto che sta cercando di entrare. Google l'ho cercato Facebook, però mi è apparsa una pagina di Facebook che praticamente mi chiedeva l'indirizzo email e praticamente anche la password. Io ho digitato tutti e due, invece di aprire Facebook si è aperta questa pagina dove c'era scritto che la pagina dove io ho messo la password non era di Facebook. Praticamente l'hanno clonata, l'abbiamo clonato la password. Guarda che c'è qualcuno che sta cercando di entrare sotto, fallo entrare. Bisogna stare molto attenti perché le password subito che stanno cercando subito adesso questo periodo qui, quindi utilizzano il nome tuo, il nome e cognome tuo e quindi vanno a fare ciò che c'è. Meno male io posto più non ne ho, quindi non me ne c'hanno poco da spendere, perché non spendo proprio niente in queste cose qua. Quindi si attacca a fare domini. Testa ti devono craccare a te, già, fai entrare, guarda che c'è gente sotto. Avanti, chi c'è? No, non ho sentito nessuno io, scusate ma non ho sentito nessuno, avanti. No, in Marco Condo, dove sei? A casa. Non sei uscito già a vedere quella cosa là? Dove c'è? Sesta marcia. Quale cosa? Sesta marcia. Quell'antennino. No, non ti sei. Eoia, l'antennino che abbiamo visto lì. Dimmi, non te la luce. stare in macchina per poter fare di ex a casa sua viene un pochettino difficile farlo, capito? Lui ti vuole essere mai in macchina, fa le antenne con la canna da pesca e le sperimenta, perché se quelle sono antenne con la canna da pesca. Italia Nord Sardegna, distaccamento 165, l'operatore del talone della città di Sassari che ti super cordializza, avanti collega. Forti e pulita, pulito il suono. Nel caso se viene di comprare una cosa nuova, non fa comprare a seconda mano, sta scherzando, e non sai neanche cosa compri. Di tutto c'era, amplificatori, telefoni che si vecchi, non ti ha fatto per niente, quindi al limite a meno che si può perdere per dire 2 euro l'8007, perché sono gli unici telefoni che funzionano dentro la galleria, per dire, con tutte le schede, Omite, Team, 3 eccetera eccetera, solo quello va bene. Ma peraltro i televisori non servono un tubo, quelli che ci sono, monitor del computer da tanto, non c'è niente, non è nulla di buono, a meno che non serva qualcuno magari qualche cosa, allora vabbè, te la paga che è una fesseria. Gli volevo dare 20 euro a Giuseppe, con un macchino 40 grammi, ma scherzando. Per 20 euro domani dai, io te lo porti in qualche tappata e ti fai 10-20 euro in più. Ma scusa, che lui paga subito, ti prende per il collo, tutta gente che va che ha bisogno sicuramente, perché se gli dà la roba, tipo una moletta 20 euro, 30 euro, una mola di quelle, non moletta, una mola grande, poi c'è delle cose, non so cosa conviene. Per dire, se uno abbandona un lavoro, vende una campagna, si vende l'attrezzatura, la vende per una cazzata, tu vai, se ti serve ti dà un paese. No, forse non hai capito cosa fa lui, perché stasera ho sentito io. Dice, io compro a 30 e vendo a 60, lui si fa 30 euro e si copre il doppio, mi se tu ne hai 50, lui se ne fa 100. Il discorso è quello, ma stai scherzando, ce la fai. Per quello lo metti su eBay, quello che è, qualcuno, internet, te lo vendi sicuro e perfetto, a quel prezzo che lo vuoi tu. Non è che stai morendo di fame, hai capito? A meno che non sei un ladro, per dire, apri un appartamento e ti vendi tutta la mobilia, allora va bene, per dire, insomma, 300 euro mi vendo tutta la mobilia, se la piglia in culo, ma non mi sono tutti i soldi in nero, hai capito il discorso? Lui lavora così, mio, prima o poi già lo fregano, non ti preoccupare, che con la modestia che c'ha, no? O ce la butta, oppure... Non penso che qualcuno vada a comprare un televisore di 10 euro, no, sono scherzato, sono finiti quei tempi. Io il televisore c'ho un triato, ma non glielo do perché mi voleva da 10 euro. Io invece sono televisori, quelli l'ultima generazione, da riparare, da un regalato, e ci volevo 15 euro a sistemarlo, ci voleva solo attore. A te pare che lo porto a 20 euro, quando ne costa 90 a LED, un 17 pollici. No, Marco Condor, avanti. Parlando, è bello che quando stasera abbiamo provato il baracchino, c'era il, non so se lì prendete, bello, dice, funziona benissimo questo baracchino, hai capito? È un bello fiorito, mamma, no, tipo 20 euro, vai, gli ho detto Giuseppe, fa la cosa, portalo via, gli ho detto dai, qualcun altro, se no tu lo metti sotto le ruote, ma lui non è andato per niente, gli ho detto, e te poi il calemozzo, ho detto. Non è il 20, io sono 20-80, e mi a cosa si attacca, ti ho detto. E che radio era? Un 40 canali, è bello, ma lo vedo, ma bellino, 5 watt. Basta, va bene. Ho capito. Marco, mi ha detto. La marca me la ricordo adesso, la verità. Che marca è una marca strana, c'è un display, non è piccolino, è grande, non è piccolo. Cosa sta fatto ancora? È un carraggio tutto ruginoso, ma cosa vuole sapersi? Se lo vedi te ne scappi. Giuseppe non è un carraggio, verniciato della verità. Io sto parlando di quello che tu forse hai capito già di quei 23 canali, che era bello, non c'è più quei 23 canali, ho già guardato oggi. Qualcuno se l'ha preso, ha pigliato una bella fregatura con quel baracchino. Già ne è sparita. In teoria la sposti di posto, se c'è qualche ostacolo, qualche cosa, le stazionali cambiano. A lei dammi conferma. Aspetta, non hai capito ciò che ha detto lui. Allora lui in pratica c'era la casa del nonno e la trattura è quella lì che gli ha lasciato lui. La casa del nonno c'aveva ogni uno, il problema c'è cos'è? Che installano magari installata a parte, che cambia da una parte all'altra, cambia le stazionarie, perché è passato parecchio tempo e quindi il palo non è conduca molto, capito? Il discorso è quello lì, cioè, il palo, la staffa al palo non conduce molto e quindi bisogna graffiarla un pochettino prima di installarla e poi fare i controlli per stazionarie prima di sollevarla in su. Il discorso è quello, potrebbe anche darsi magari che è fortunato e quando ne installi c'è un euro e basta, e pigli te lisci e te le scendi giù, capito? Non è che siamo tutti parti uguali, la verità si dica. È quello che sto dicendo io, basta una qualsiasi cosa che per dire il palo adesso sarà tutto rugginoso, vorrà anche pulito quel palo. La verità si dica. L'acciaio. Anche l'acciaio, sì. Però l'acciaio è un altro gioco. No, possiamo mettere. Verità si ricca. Ma tu sei basso di radio troppo. Verità si ricca. Non dite le bugie. Vabbè, comunque io farei una cosa ben fatta, così poi non devi più salire, ti pulisci bene il palo di modo che faccia bene il contatto tutto quanto. Sì, già, ci vuole anche sui, no, non è ci vuole anche per così. Già è tutto quanto, l'ho fatte, allora io da lunedì dovrei essere in ferie, se l'ho fatta magari lunedì o domenica, ecco, la mano ve la posso dare, non c'è problema. Abbiamo 10, uno a vista, uno alza il palo, l'altro regola i stazionari, uno scende il capo, uno mette i chiodini, lo si chiama, per trasformare il cavallo. Poi io mi sono prestato, poi se sono in più non c'è problema. Adesso mi viene in mente quando c'era quella ragazza che voleva fare al monte, tutti quanti facevano i tetici, te ricordi già? Io me ne ricordo che ce n'era una che modulava, che la pagava, ma vabbè, se ce l'ha fatta in due è tanto di guadagnato. Siccome che so che diciamo quando si è in tre magari uno pulisce, l'altro fa, l'altro magari vulcanizza l'antenna, vabbè, no, se ce l'ha fatta in due tranquillamente non c'è problema. Già è niente da dire, già è ben accetta la partecipazione, vediamo quando la pensa. Dicevo io che tutto questo maradan per una scena di minchia, che la vinca che vale 38 euro, è una scena, è per sempre una scena, però è una scena da prima. E infatti si piegano subito. Mi raccomando, isolala bene nel BL, nelle parti dove si dove entra acqua, perché se no ti dura attraversato Stefano volante. Vulcanizzante largo, lo sai. Vabbè. Sai dove posso comprare un altro vulcanizzante però largo, non stretto. Stretto l'ho trovato, l'ho già comprato ma non l'ho preso proprio per averlo di provvista. Perché se no magari so sempre il tutto. Però lo vorrei più largo. Bricoman, Bricoman. Era largo. Largo quanto vuoi. Ecco. No, l'ho comprato proprio la Ecco, ma portatore scracciato. L'ho comprato proprio la Ecco, ma portatore, se ce l'ha stretto, 3 cm. Che stai uscendo così basso, Cla? Non c'è un'antenna. Chiedere quello che vulcanizzare tu mi bruci. qua. Sono un direttivo, adesso prende proprio 60 gradi nord-est. Gira per l'altra parte. Ciao a tutti. 9.30 a parte mia. È 9.30, sì, tu ce l'hai tutti, tu sei 9.30. Io evidentemente ce l'hai dall'altra parte rispetto a me. Nord-est, tutto sopra già. Ciao, class, salutoni. Tutti ciao, divertitelo. Chiedi quello per vulcanizzare i tubi PVC, Gianni, e ti danno quello faccia larga. Ciao a tutti, alle prossime. Ciao, ciao, ci sentiamo. E per averlo discortami, no? Non è che mi serva, ma se ce lo discorto è sempre vinto. Ciao, ragazzi. Va bene, avanti. Ah, se ti trattieni, se no ti saluto. Avanti, Antonello Pompugno. Sì, qua sono. Mi sono tagliato il coso, cazzo. Come mettermi il coso, la notte che non felice. Non c'ho connessione. Togli questo bip e due. Suonavo, se non te lo tolgo, mica ti metto quello a 4 lì. Anche a 6. Ecco qua. Toglielo. Se non tolgo bip, se no me lo posso togliere. Come ti credi di fare come fai una volta, che non ti attaccare i bip nel chemo, non saranno. Se non vi piace le cuffie, cosa vuoi ti dica io? Tutto quello del microfono, figurati. Ce l'ho quella 4, il 4 purtroppo non la vuoi tenere, anzi 4 più 2, 5 con quello della malattia. Toglilo. E vabbè, se non ti piace pazienza, no, non so cosa dire, difido il discorso. Avanti Gianni. Ciao ragazzi. Ehi vabbè, bisogna avere un po' di sopportazione in tutto. Quindi Marco, siamo quasi agli sgoccioli. Ma fa ridere questa storia, durante la settimana un avvenimento senza precedenti. Cosa ci penso? Te ne avrei messo direttamente una bella massiccia. Una bella massiccia? È tipo un amanto, va, ne avrei messo una così direttamente. No, questo era viale. Allora la Sirio Gaimanto, oppure di Max 2000 senza radiale. Perché senza radiale? Che problema ti dà nel radiale? Non li posso vedere. Perché ti escono, ti cadono, lo so. Hola. Ti comando, non so se è pesante, io voglio anche molto leggera. Pensa che prima c'era la boomerang, quella da 2375. Non vedeva niente però, perché stavo da secondo. Cazzo, c'è un battimento. Toglila. Sassu. Toglila. Ci ho metto guarda, faccio il dito. Toglila. E su che cale? Su 31, sentivo questo abbattimento strano, io ho detto, boh. Hai avuto abbattimenti in vita mia con 3009. Toglila. Aspetta, metto un pendi, No, aspetta, attacco il bicicletto 50, gli faccio vedere. Toglilo. Adesso, aspetta. Toglilo, t'ho detto. Invece l'attacco. Toglilo. Aspetta, attacco il bicicletto 50. Sì, il bicicletto 150, attaccatelo al culo, attaccatelo. Ma qualcuno mi fa battimento così? Zitto. Il mio canale. Aspetta, dove la faccio il DX e... Gianni, doppio RU. Sì, vabbò. Continui, se l'hai fatto il volume anche dell'altra radio, non ti cazzo, ma non mi santa. No, che non so, sono dall'altra parte. Ah. Sentiamo, vabbè, adesso lo schiaccio. Facciamo io. Faccio il DX su 31, sentiamo abbattere, ma... Cuccia. Così la verità è. Tu sei più vicino. Tu mi fa abbattimento, proprio. 10 di proprio sopra. Ola, ola, ola. Vicinante. E c'è un cazzo detto, bravo, non può essere, non ha mai fatto un battimento con 3009. Sono un vicino, un chilometro qua, per il battimento. Ecco, facendo qualcosa, ciao a tutti. E a ciao. Ola. Te l'ho qua. Scusate,

quel cappetto qua. Grazie. Il segnale, segnale. Propagazione. Propagazione now. This time, propagazione. Okay. cambiato. Comunque già sta funzionando correttamente, dai. Già pompa allora, sì. E via, pompa pompa. E beh, fischiato, come mai? Guarda che non c'è solo che sta fischiando, neanche Giuseppe stasera ha rinnovato il microfono amplificato uno mio. A casa mia c'è bene, a casa sua ha fatto 10 minuti e poi cominciato a fischiarci, ma un treno sembrava. Se vuol dire che è serata di crusci? Ma che è un fatto, boh. Una serata strana oggi, forse per il vento, quello che è. Stavo fischiando anche lui stamattina. Gli ho aspettato che stavo uscendo bene 10-20 minuti, dopo che ho cominciato a fischiare, ecco, faceva allora che ci ha già mangiato la batteria, no, questo non so. Non può essere che sia quella tra 3 giorni, no? La batteria è nuova, che c'entra la batteria? Non c'entra proprio niente la batteria. Il problema è che quando c'è stazionario, con la fischia subito, capito? Non è come il MP5 non fischia, quello fischia subito, capito? Si innesta, ci vuole la massa a terra, eccetera, eccetera, capito? Che macchina non aveva a fare? Ho provato 10, altra che 10 non aveva. Facciamo già. Sai, tu fischi, fai pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ehi, quando tocco il Nike. Ma, vabbè, dai. Se non mi, se lo faccio. Diciamo, io mi metto la batteria da una volta e così. E gliela leggo ai lassi, per così due. Lui fai. Vabbè, comunque sia, con lui se lo sto fare, magari c'è un leggero di rientro di alla frequenza e ti fa quel difetto lì, capito? A tutti i dini. Ehi, te l'ho detto, l'antenna è troppo vicina. È a un metro, nemmeno a un metro. Ehi, figurati, ecco perché ti fa lo stesso quel difetto lì. Speriamo che non abbiano portato via l'esolo in casa la moto. essere suonato, ha sentito questo tono forte e il hard disk è impazzito. Poi il hard disk che sta cominciando a partire, che c'è da 8 anni, dicevo. Oppure non lo so, come è stato anche altro, non lo so spiegare. E tu ti hai tagliato il computer che ti ha girato là? No, lo spento, l'ho riavviato e partito. Adesso vedo se è successo qualche cosa. Prima o poi deve succedere. 8 anni ancora, 8 anni. E di solito dura una vita media di 3 anni. Riavvia, controlla un pochettino cosa è successo. Sistemalo un pochettino. Prima maggio, quindi sono chiari. Io buonanotte, era acceso, era rimasto acceso. Ciao. Buona cena domani, là, mi raccomando. Mangia poco e ciuccia molto. A sproposito. Mi dica. L'hai tolta o sbaglio? Perché già l'ho tolta, sì. Ce l'ho qua a casa, ce l'ho smontata. Devo sistemarla. Ah, va bene. Ribuonanotte, anzi, tribuonanotte.